M. Seconda traccia. Ancora uno soltanto, babbo, soltanto per Mr. Elton. Povero Mr. Elton. Mr. Elton, t'è simpatico, babbo. Devo trovargli una sposa. Non c'è nessuna in Highbury che lo meriti. Ed egli è stato qui un anno intero e si è messa su una casa così comoda che sarebbe una vergogna che egli rimanesse ancora a scapolo. E mentre oggi univa le mani degli sposi, mi pareva di leggergli in viso che gli sarebbe piaciuto che la stessa cerimonia fosse stata celebrata per lui. Stimo assai Mr. Elton, e questo è l'unico modo che ho di rendergli un servizio. Mr. Elton è un grazioso giovanotto, certo, e anche un ottimo giovanotto, e ho molta considerazione per lui. Ma se tu gli vuoi mostrare qualche riguardo, mia cara, invitalo a pranzare un giorno con noi. Sarà molto meglio. Oso supporre che Mr. Knightley vorrà usarci la cortesia di trovarsi con lui. Con gran piacere, quando volete, disse ridendo Mr. Knightley, e sono completamente d'accordo con voi che questo sarà molto meglio. Invitatelo a pranzo, Emma, e servitegli la miglior porzione di pesce e di pollo, ma lasciate che si scelga la moglie da sé. Statene sicura, un uomo di 26 o 27 anni sa il fatto suo. Mr. Weston era nato a Highbury da una rispettabile famiglia che, durante le due o tre generazioni ultime, era diventata patrizia e possidente. Aveva ricevuto buona educazione, ma avendo ereditato ancor giovane un piccolo patrimonio, aveva perduto ogni inclinazione per le carriere più umili a cui si erano dedicati i fratelli, ed aveva soddisfatto la sua mente attiva e vivace e la sua indole socievole entrando nella Guardia Nazionale della Contea, allora costituita. Il capitano Weston godeva gran popolarità, e quando i casi della sua vita familiare gli ebbero fatto conoscere Miss Churchill, che apparteneva a una grande famiglia dello Yorkshire, e Miss Churchill se ne innamorò, nessuno rimase sorpreso, ad eccezione del fratello di lei e di sua moglie, che non l'avevano mai visto ed erano pieni d'una superbia ed un'importanza che tale matrimonio avrebbe menomato. Tuttavia, Miss Churchill, essendo maggiorenne e assoluta padrona della sua fortuna, sebbene questa non fosse proporzionata al patrimonio della famiglia, non volle a nessun patto abbandonare l'idea delle nozze, e queste ebbero luogo con infinita mortificazione di Mr. e Mrs. Churchill, che la ripudiarono col debito decoro. Fu un'unione male assortita e non produsse molta felicità. Mrs. Weston avrebbe dovuto trovarcene di più, perché aveva un marito a cui il caldo affetto e la dolcezza dell'indole facevano ritenere che egli dovesse a lei ogni cosa in cambio della sua gran bontà di innamorarsi di lui. Ma sebbene ella avesse una sorta di spirito, non ne aveva del migliore. Possedeva abbastanza forza d'animo da insistere sulla sua volontà a dispetto del fratello, ma non abbastanza da reprimere un irragionevole rammarico per l'irragionevole collera di quel fratello, o un rimpianto per il lusso della sua casa di ragazza. Vivevano più lautamente che non permettessero le loro rendite, eppure non c'era confronto con Enscombe. Non per questo ella amava meno il marito, ma avrebbe voluto essere al tempo stesso la moglie del capitano Weston e Miss Churchill di Enscombe. Il capitano Weston, che a sentire gli altri, e specialmente i Churchill, aveva fatto un matrimonione, fu, in fin dei conti, quello che nell'affare ci rimise. Che, quando sua moglie morì dopo 3 anni di matrimonio, egli si trovò più povero di prima e con un bambino da mantenere. Tuttavia, fu presto alleviato dalle spese per il bambino. Il ragazzo aveva contribuito a una specie di riconciliazione insieme con l'attenuante della lunga infermità materna. E Mr. e Mrs. Churchill, non avendo figli propri né altri bimbi così vicini di parentela di cui prendersi cura, offrirono di provvedere interamente per il piccolo Frank, subito dopo la morte di sua madre. Si può supporre che il vedovo padre provasse qualche scrupolo e qualche riluttanza, ma siccome questi furono vinti da altre considerazioni, il bambino fu lasciato alle cure e alle ricchezze dei Churchill e a Weston non rimase che cercare i propri comodi e migliorare la propria situazione come meglio poteva. Si dimostrò desiderabile un completo mutamento di vita. Egli abbandonò l'esercito ed entrò in commercio, avendo fratelli già ben sistemati a Londra, il che gli aprì la strada. Si trattava di un'azienda che procurava giusto abbastanza impiego. Egli possedeva ancora una casetta a Highbury, dove passava la maggior parte dei giorni di vacanza, e tra utili occupazioni e i piaceri della società passarono lietamente i successivi 18 o 20 anni della sua vita. A quell'epoca aveva messo insieme un discreto patrimonio, quanto bastava per l'acquisto di una piccola tenuta presso Highbury, a cui egli aveva sempre aspirato. Quanto bastava per sposarsi una donna sprovveduta al punto di Miss Taylor e per vivere secondo i desideri della sua indole cordiale e socievole. Da qualche tempo ormai Miss Taylor aveva cominciato a influire sui suoi piani, ma siccome non era il tirannico influsso di una persona giovane su un'altra, non aveva scosso la sua determinazione di non sistemarsi finché non avesse potuto acquistare Randalls, e per lungo tempo la vendita di Randalls fu attesa con desiderio, sicché egli aveva tirato innanzi senza deflettere dai suoi scopi, fino al giorno in cui li conseguì. Egli aveva fatto la sua fortuna, si era comprata la sua casa e aveva ottenuto sua moglie, e iniziava così un nuovo periodo d'esistenza con ogni probabilità di felicità maggiore di quanta ne avesse avuta in ogni periodo precedente. Non era mai stato un uomo infelice. La sua indole lo aveva protetto, perfino durante il suo primo matrimonio. Ma il secondo doveva mostrargli come poteva essere incantevole una donna giudiziosa e veramente amabile, e dargli la più gradita prova di quanto fosse preferibile lo scegliere all'essere scelto, il provocar gratitudine al sentirla. Con la sua scelta non aveva che da accontentar se stesso. Il suo patrimonio era tutto suo, che, quanto a Frank, si trattava per lui di più che d'essere educato tacitamente come l'erede dello zio. L'adozione era divenuta così dichiarata che la maggiore età gli fu fatto assumere il nome di Churchill. Era perciò sommamente improbabile che egli avesse mai bisogno dell'aiuto di suo padre. Il padre non nutriva timori a questo riguardo. La zia era una donna capricciosa e teneva il marito completamente sotto di sé. Ma non era nell'indole di Mr. Weston immaginare che un capriccio potesse essere così forte da aver conseguenze per una persona così cara, e, come egli credeva, così meritatamente cara. Egli vedeva il figlio a Londra ogni anno e ne andava orgoglioso, e la sua affettuosa descrizione di lui come di un giovane egregio aveva fatto sì che anche Aibor ne sentisse una specie d'orgoglio. Egli era considerato appartenente al luogo abbastanza perché i suoi meriti e il suo avvenire costituissero una specie di comune interesse. Mr. Frank Churchill era uno dei vanti di Ivory e c'era una curiosità viva e generale di vederlo, sebbene tal complimento fosse così poco contraccambiato che egli non si era mai recato là in vita sua. Si era spesso discorso d'una sua visita al padre, ma questa non si era mai concretata. Ora, nell'occasione del matrimonio del padre, era stato suggerito da parte di moltissimi, quale segno quanto mai conveniente di rispetto, che quella visita dovesse aver luogo. Non c'era, a questo proposito, nessuna voce discordante, sia quando Mrs. Perry prendeva il tè da Mrs. e Miss Bates, sia quando Mrs. e Miss Bates restituivano la visita. Adesso era il momento in cui Mr. Frank Churchill sarebbe dovuto venire tra loro, e la speranza prese forza allorché si seppe che egli aveva scritto alla sua nuova madre in questa circostanza. Per qualche giorno ogni visita mattutina in Ivory non mancò di accennare alla bella lettera ricevuta da Mrs. Weston. «Immagino che abbiate sentito della bella lettera che Mr. Frank Churchill ha scritto a Mrs. Weston. Sento che è stata proprio una gran bella lettera. Me ne ha parlato Mr. Woodhouse». Mr. Woodhouse ha visto la lettera e dice che in vita sua non ha visto lettera così bella. Era davvero una lettera commendevolissima. Naturalmente Mrs. Weston si era fatta un'idea quanto mai lusinghiera del giovanotto. E codesta gradita attenzione era una prova irresistibile del gran buon senso di lui e una preziosa aggiunta a ogni fonte e a ogni espressione di felicitazioni che il matrimonio le aveva già procurato. Ella si sentì una donna fortunatissima ed aveva vissuto abbastanza per sapere come ben potesse considerarsi fortunata, là dove l'unico rammarico era per una separazione parziale dai suoi amici, i cui sentimenti verso di lei non si erano mai raffreddati e che mal sopportavano di separarsi da lei. Sapeva che talvolta la sua mancanza doveva essere sentita e non poteva pensare senza pena che Emma dovesse perdere un solo piacere o soffrire un'ora di tedio per la mancanza della sua compagnia. Ma la cara Emma non era di carattere debole, era all'altezza della sua situazione più di quanto sarebbero stato la maggior parte delle ragazze, ed aveva giudizio ed energia e spirito che si poteva sperare l'avrebbero aiutata a superare bene e felicemente le piccole difficoltà e i piccoli sacrifici che quella situazione importava. E poi c'era tanta ragione di conforto nella brevissima distanza tra Randalls e Hartfield, così conveniente anche per donne che volessero coprirla da sole. E nell'indole e nelle circostanze di Mr. Weston, che non avrebbero fatto sì che la stagione che s'approssimava fosse un impedimento al loro passare insieme la metà delle serate d'una settimana. La sua situazione era, insomma, per Mrs. Weston, fonte di ore di gratitudine e solo di momenti di rammarico. E la sua soddisfazione, ma è poco chiamarla soddisfazione, il suo lieto godimento era così giusto ed evidente che Emma, per quanto conoscesse bene suo padre, talvolta provava sorpresa nel vederlo ancora capace di commiserare la povera Miss Taylor, quando essi la lasciavano a Randalls in mezzo a ogni agio domestico, o la vedevano andarsene la sera accompagnata alla propria carrozza dal suo simpatico marito. Ma non capitava mai che ella se ne andasse senza che Mr. Woodhouse facesse un gentile sospiro e dicesse: «Ah, povera Miss Taylor, quanto le piacerebbe restare!» Non c'era modo di riavere Miss Taylor, né era molto probabile che si cessasse di compiangerla, ma il corso di poche settimane portò qualche sollievo a Mr. Woodhouse. Erano finite le congratulazioni dei suoi vicini. Egli non veniva più tormentato con gli auguri di felicità per un avvenimento così doloroso. E la torta nuziale che gli aveva causato tanta afflizione era stata tutta mangiata. Il suo stomaco non poteva tollerare niente di succulento ed egli non poteva mai credere che gli altri fossero diversi da lui. Quello che era insalubre per lui lo considerava nocivo a chiunque e perciò non aveva risparmiato sforzi per persuaderli a non fare una torta nuziale e, riusciti quelli vani, non aveva messo minor impegno nel tentar di impedire a ognuno di mangiarne. Si era dato pena in proposito di consultare Mr. Perry, il farmacista. Mr. Perry era un uomo intelligente, dai modi signorili, le cui frequenti visite erano una delle consolazioni della vita di Mr. Woodhouse. E, postogli la questione, egli non poté non riconoscere, sebbene a dispetto delle proprie inclinazioni a quel che pareva, che la torta nuziale può certo riuscire indigesta a molti, forse ai più, a meno che non se ne mangi moderatamente. Con tale opinione a suffragar la propria, Mr. Woodhouse sperava di influire su ogni persona che venisse a visitare la nuova coppia, ma pure la torta seguitava a essere mangiata, e non ci fu riposo per i suoi caritatevoli nervi finché non fu tutta finita. Correva una strana voce per Ivory, che tutti i piccoli Perry erano stati veduti con in mano una fetta della torta nuziale di Mrs. Weston. Ma Mr. Woodhouse non ci volle mai prestar fede. A suo modo, Mr. Woodhouse amava la società. Gli piaceva molto che i suoi amici venissero a fargli visita e per il concorso di varie cause, la sua lunga residenza a Hartfield e la sua buona indole, il suo patrimonio, la sua casa e sua figlia, egli poteva esigere le visite del suo piccolo circolo quasi a suo beneplacito. Al di là di quel circolo non aveva molti rapporti con altre famiglie. Il suo orrore di far tardi la notte e di partecipare a pranzi con molti invitati lo rendevano incapace di coltivare altre conoscenze che quelle disposte a visitarlo nei modi che a lui piacevano. Per sua fortuna ce n'erano parecchie così a Ivory, con Randalls nella stessa parrocchia e l'abbazia di Dunwell nella parrocchia limitrofa, dove Mr. Knightley aveva la sua tenuta. Non di rado, per suggerimento di Emma, egli invitava a pranzo alcuni degli eletti e dei favoriti, ma le brigate serali erano ciò che preferiva e, a meno che talora non si immaginasse impari alla fatica di ricevere gente, rara era la sera della settimana in cui Emma non riuscisse a mettere insieme per lui una partita di carte. Un riguardo sincero, d'antica data, faceva venire Weston e Mr. Knightley. E quanto a Mr. Elton, un giovanotto che viveva da solo senza provarci gusto, il privilegio di scambiare qualunque vuota sera della sua nuda solitudine con le eleganze e la società del salotto di Mr. Woodhouse e coi sorrisi della sua leggiadra figlia non rischiava di essere gettato via. Dopo costoro veniva una seconda schiera. Tra i più accessibili di questi erano Mrs. e Miss Bates e Mrs. Goddard, tre signore quasi sempre agli ordini d'un invito da Hartfield, che erano mandate a prendere e ricondotte a casa così spesso che Mr. Woodhouse non pensava che fosse una fatica per James o per i cavalli. Se ciò avesse avuto luogo solo una volta l'anno, sarebbe stato motivo di lagnanze. Mrs. Bates, vedova di un precedente pievano di Highbury, era una signora molto vecchia che quasi non viveva altro che per il tè e i quadrigliati. Campava con una figlia nubile molto modestamente ed era circondata di tutto il riguardo e il rispetto che può suscitare un'innocua vecchia signora che si trovi in sì sfavorevoli circostanze. La figlia godeva di un grado di popolarità veramente eccezionale per una donna che non era né giovane, né carina, né ricca, né sposata. Miss Bates si trovava nelle peggiori condizioni possibili per ottenere molto del pubblico favore. Non aveva superiorità intellettuale per controbilanciare le proprie deficienze o intimidire e obbligare al rispetto, sia pure esteriore, coloro che avrebbero potuto odiarla. Non aveva vantato mai bellezza o vivacità d'ingegno. La sua giovinezza era trascorsa senza distinzione e la sua mezza età era dedicata alla cura d'una madre le cui forze declinavano e al tentativo di far bastare quanto più poteva una piccola rendita. Eppure essa era una donna felice e una donna che nessuno nominava senza benevolenza. Era la sua propria benevolenza verso tutti e la sua indole contenta che operavano tali miracoli. Essa amava ognuno, si interessava alla felicità di ciascuno, scorgeva subito i meriti di ciascuno. Si riteneva un essere fortunatissimo, che godeva dei vantaggi di una madre così eccellente e di tanti buoni vicini, e amica di una casa che non mancava di nulla. La semplicità e la gaiezza della sua natura, il suo spirito contento e grato, erano una raccomandazione per tutti e una miniera di felicità per lei stessa. Non si stancava mai di parlare di piccole cose, e questo era proprio quel che ci voleva per Mr. Woodhouse, pieno di banali informazioni e di innocenti pettegolezzi. Mrs. Goddard era maestra d'una scuola, non d'un educandato o d'un istituto o di qualcosa che professasse in lunghe frasi di raffinata assurdità, di combinare un'istruzione liberale con una morale elegante secondo nuovi principi e nuovi sistemi, e dove, pagando un'enorme retta, le signorine potessero gradualmente perdere la salute e acquistare vanità, ma d'un vero e proprio onesto convitto all'antica, in cui una ragionevole quantità di cognizioni era venduta a un prezzo ragionevole, e dove si potevano mandare le ragazze perché si levassero dai piedi e a forza di sgobbare si conquistassero un po' di istruzione senza correre il pericolo di tornare a casa prodigi. La scuola di Mrs. Goddard godeva alta stima e molto meritatamente, poiché Highbury era considerata un sito particolarmente salubre. Mrs. Goddard aveva una casa e un giardino assai vasti. Dava alle bambine un vitto sano e abbondante. Le faceva scorrazzare attorno un bel po' durante l'estate e nell'inverno medicava con le proprie mani i loro geloni. Nessuna meraviglia, quindi, che una coda di 20 coppie di giovinette le andasse ora dietro in chiesa. Era un tipo di donna materna, senza bellezza, che aveva lavorato indefessamente da giovane e ora riteneva di potersi concedere di tanto in tanto la vacanza d'una visita all'ora del tè. Ed essendo stata in passato molto obbligata alla bontà di Mr. Woodhouse, sentiva che egli aveva uno speciale diritto a chiederle di lasciare ogni volta che poteva il suo lindo salottino dalle pareti decorata di punti a croce per andare a vincere o a perdere poche monetine da 6 denari presso il suo focolare. Eran queste le signore che Emma riusciva di frequente a convocare ed era felice di tal potere per via di suo padre, sebbene per quanto la riguardasse ciò non rimediasse all'assenza di Mrs. Weston. Era lieta di vedere il padre soddisfatto e si rallegrava con se stessa di riuscire a combinare le cose così bene. Ma le poche vivaci filastrocche di 3 donne come quelle le facevano sentire che ogni serata spesa così era appunto una di quelle lunghe sere che essa aveva paventato. Mentre una mattina stava seduta con la prospettiva di concludere la giornata precisamente in questo modo, fu recato un biglietto di Mrs. Goddard che, nei termini più rispettosi, chiedeva il permesso di condurre secco Miss Smith, una richiesta assai ben accetta, che Miss Smith era una ragazza 17enne che Emma conosceva benissimo di vista e a cui s'andava interessando da un pezzo a causa della sua bellezza. Venne risposto con un cortesissimo invito e la serata non incusse più timore alla bella padrona di casa. Harriet Smith era figlia naturale di qualcuno. Qualcuno l'aveva messa parecchi anni prima alla scuola di Mrs. Goddard e qualcuno di recente l'aveva innalzata dalla condizione di scolara a quella di alunna, ospite della famiglia della direttrice. Questo è quanto si sapeva generalmente della sua storia. Non aveva amici visibili a parte quelli che si era fatti a Highbury e adesso era appena tornata da una lunga visita in campagna a certe signorine che erano state là a scuola con lei. Era una ragazza molto leggiadra e capitava che la sua bellezza fosse d'un genere che Emma particolarmente ammirava. Era bassa, grassottella e bionda, con un colorito incantevole, occhi azzurri, capelli chiari, fattezze regolari e uno sguardo di gran dolcezza. E prima della fine della serata, Emma era invaghita dei suoi modi, non meno che della sua persona, e decisa a coltivare la sua conoscenza. Non rimase colpita da alcunché di particolarmente brillante nella conversazione di Miss Smith, ma la trovò nell'insieme molto attraente, non disdicevolmente timida, non avversa a parlare, eppure così aliena dall'intrudersi, così disposta a mostrare una deferenza appropriata e conveniente e una gratitudine tanto simpatica per essere stata ammessa a Harfield, e così ingenuamente impressionata dall'apparenza d'ogni cosa in uno stile così superiore a quello a cui era avvezza, che essa doveva aver buon discendimento e meritava d'essere incoraggiata. E incoraggiata doveva essere.